l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti. Siamo qua in diretta anche oggi dai nostri studi di Radio 24 per il nostro viaggio a raccontare, a respirare l'Europa, un programma in collaborazione con il network paneuropeo Euronet. Euronet.io è il sito per vedere, leggere tutti i dossier che quotidianamente vengono inseriti per fare una diversa narrazione della nostra Europa. Ci trovate anche sui social network, su Facebook, facebook.com/l'altra Europa, oppure su Twitter, sul mio account personale, @ Federico Taddia, account e pagine che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo e che andiamo a toccare. Oggi parliamo di Natale in giro per l'Europa, e vi voglio invitare, se anche voi siete stati in questi giorni in una qualche città europea, in una qualche nazione, che Natale avete visto? Cosa avete raccolto? Al di là delle emozioni, al di là dei sentimenti, avete visto dei segni concreti di crisi, di ripresa, di speranza? Mandateci i vostri racconti, le vostre fotografie. Potete farlo via Twitter, appunto l'account è @FedericoTaddia, oppure via SMS. Il nostro numero è il 349-238-6666 per i vostri racconti, i vostri reportage natalizi. Siamo qua, parte il nostro viaggio, parte con un Natale in Transilvania. Scama Young Effect, l'associazione, un'associazione tra le tante che si occupa di scambi internazionali, e ha organizzato a metà dicembre uno scambio intitolato Aspettando Natale in Transilvania. Si è tenuto in Romania e fa parte delle tante attività di giovani in azione, quindi la possibilità che hanno i giovani di contaminarsi vivendo l'Europa dal basso, dall'incontro, dal confronto. E questa settimana era proprio centrata sul Natale, per capire quelle che sono le tradizioni, gli usi, i costumi, andare oltre, partire da quello che è appunto uno scambio culturale per fare un percorso di cittadinanza attiva, di cittadinanza europea. C'era anche un italiano che ha partecipato a questa esperienza ed è qua con noi. Diamo il benvenuto a Umberto Moretti. Ciao Umberto. Ciao Federico, buongiorno. Buongiorno a te. 23 anni, studente di economia, e ti definisci un vero cittadino europeo. Sei giovanissimo ma hai già masticato tanta Europa, giusto? Sì, sì, ho già avuto diverse esperienze in vari stati europei, sì, posso dire di sì. Hai fatto l'Erasmus, quindi appartieni a quella bellissima generazione che ha deciso. Bellissima esperienza, sì. A Bilbao, il secondo anno di università. Uh-huh. E non ti sei fermato lì? Purtroppo devo tornare a finire gli esami, come di solito succede quando si fa l'Erasmus, però è stata un'esperienza che è iniziata e finita lì, è stata bellissima. Uh-huh. Posso dire. Sì. E niente, hai scelto di partecipare a questa esperienza, a questo Natale in Transilvania, è un po' titolo da cine panettone. In verità credo sia stata una bella parentesi di vita. Sì, è stata una bellissima esperienza, una settimana intensissima, potrei chiamarlo un mini Erasmus a tutti gli effetti. Ci siamo trovati, eravamo 35 partecipanti da 7 nazionalità diverse: Lituania, Lettonia, Grecia, Turchia, Polonia e ovviamente la Romania. Sì. E abbiamo fatto una settimana di scambio, e il tema del progetto era appunto le tradizioni natalizie dei nostri paesi. Mm-hmm. Il programma è finanziato dalla Commissione Europea, si chiama Gioventù in Azione, sì. Youth in Action. Mm-hmm. E appunto è una delle 5 azioni, perché è un programma che si suddivide in altre 5 azioni e faceva parte della Gioventù per l'Europa. Sono scambi di giovani, qualsiasi giovane poteva partecipare, non dovevi essere uno studente per forza universitario. C'era anche ad esempio un cuoco greco che aveva 27 anni, aveva voglia di fare questo scambio e vi ha partecipato. E dove si è tenuto? Non nella capitale? No, infatti non è proprio Transilvania, è Campina, una cittadina di 40.000 abitanti a un'ora e mezza da Bucarest, a nord di Bucarest. Un posto che sinceramente non so se ci sarei mai stato se non fosse stato per questo scambio. E che che Romania hai colto lì, appunto, a un'ora e mezza dalla capitale? Beh, una Romania, diciamo, molto popolare, molto quotidiana. Diciamo che il paesino, cioè la cittadina, era carina, in festa anche per il Natale, c'erano un sacco di luci, però si vedevano i segni appunto di una dittatura che c'è stata. C'erano comunque molti palazzi alveari, quelli tipici, comunque si vedono nei documentari, il paese era praticamente formato solo da quelli. Però devo dire che sì, è stata comunque una sorpresa, non sapevo cosa aspettarmi e mi sono trovato comunque bene. Ecco, invece sul tema specifico del campo, quindi il Natale, che di fatto era un pretesto per conoscersi, per stare insieme, però avete approfondito arte e tradizioni per costruire l'Europa. L'Europa ha bisogno nella sua creazione di aggrapparsi ai suoi usi, ai suoi costumi. Sì, era molto interessante anche vedere che ad esempio i turchi, che sono interessati comunque a entrare nell'Europa, non festeggiano, la maggior parte dei turchi non festeggia il Natale. Certo. Quindi sì, il Natale era più che altro un pretesto per scambiarsi, per confrontarci fra di noi. Devo dire che le tradizioni rumene non ne abbiamo viste tantissime, anche perché è stato più che altro un'occasione abbiamo fatto delle presentazioni ad esempio sul Natale, noi, il nostro gruppo, praticamente è finita lì, il tema natalizio. Certo. Ci hanno fatto fare poi dei laboratori, ci hanno fatto praticamente costruire, creare dei regali che dopo abbiamo venduto alla piazza del paese e che erano destinati, i fondi che raccoglievamo, a un orfanotrofio. Quindi il tema del Natale c'era, ma era più un pretesto, come hai detto te giustamente, per fare qualcosa per stare insieme, per far qualcosa di utile, come è stato raccogliere i fondi dell'orfanotrofio. Dopo siamo andati a visitarlo, a visitare i ragazzi dell'orfanotrofio, abbiamo fatto anche un coro, ci hanno fatto anche cantare, abbiamo avuto la possibilità di dare i regali e via. Ti è toccato anche quello. Grazie davvero Umberto. youngeffect.wordpress.com, il sito. Grazie dell'associazione che si occupa di scambi internazionali. Complimenti a te e buon Natale. Ciao. Buon Natale. E con questa malinconica canzone greca sul Natale andiamo appunto in Grecia, stiamo facendo un viaggio, andiamo a sfiorare il Natale in alcune delle nazioni più rappresentative di questa Europa. Se anche voi siete stati in questi giorni, in queste settimane, in una qualche città europea e volete raccontarci proprio con un flash, con un'immagine, quale Natale avete accolto, un Natale di speranza, un Natale di crisi, un Natale di rassegnazione, se c'è stato qualche segno tangibile che ha colpito la vostra attenzione, scrivetecelo 349-238-6666, oppure se volete farlo via sms, oppure attraverso Twitter, l'hashtag è ovviamente l'altra Europa. Andiamo in Grecia per avere una fotografia anche da lì, e lo facciamo con un'amica dell'altra Europa. Lei è una giovane imprenditrice, abbiamo raccontato la sua storia, perché nella Grecia in crisi lei ha trovato la forza, ha trovato un'idea e ha messo su una piccola impresa di allevamento di lumache, quando anche la creatività, quando anche andare al di là della consuetudine appunto diventa la svolta, diventa quella opportunità. Altri non ci hanno pensato, altri non ci hanno creduto, lei sì. Diamo il ben ritrovato a Maria Vlaciu. Ciao Maria. Ciao, buongiorno Federico, buongiorno in tutta Italia. Come stai? Bene, bene, benissimo, bene. Grazie. Come sta andando la tua attività? Ci ha molto incuriosito quando abbiamo parlato della tua storia, perché è particolare come è nata. Ci avevi raccontato che era anche in espansione, tante famiglie che stavano iniziando a lavorare per te e con te. E continua ad andare bene la tua impresa? Sì, guarda, sicuramente la crisi ha toccato tutti i mestieri in Grecia, altri più e altri meno. Certo. Però le ditte che sono innovative ed estroverse riescono a sopravvivere piuttosto alla crisi. Mm-hmm. Il mio lavoro con le lumache sta andando pian piano. E sta andando bene, anche perché mi occupo del settore primario, che è un settore di grande speranza e anche una grande scommessa per la Grecia. Certo. So che lavori molto con l'estero, sì. Anche questo è infatti, bello, insomma, vuol dire. Lavoro con molti paesi, in generale con molte ditte, cerco di offrire sempre più servizi e possibilità di farci conoscere, di conoscere anche la lumaca, per quello adesso abbiamo cominciato anche un programma per la coscienza ambientale dei bambini, cioè abbiamo molte scuole da tutta la Grecia che vengono da noi. E poi tra l'altro questo è il periodo di esportazioni per noi, soprattutto in Europa, in Spagna, in Francia, ma anche in Italia, dove la richiesta e la consumazione aumenta durante le feste natalizie. Mm-hmm. Ecco Maria, e tu appunto da piccola imprenditrice, mi piaceva avere un tuo resoconto, un tuo reportage, che aria si respira in questa Grecia, dove ci sono ancora le proteste, dove ci sono anche ieri l'altro comunque uno sciopero, dove c'è paura, dove c'è timore, dove si fa fatica a vedere la fine del tunnel. Ecco, questo Natale sta evidenziando, immagino, tutte queste tensioni. Tu cosa hai captato dai tuoi colleghi, dai tuoi amici, da quello che vedi nei tuoi incontri? Per quanto riguarda i negozi, stiamo vedendo che non sta andando tanto bene. L'altro ieri sono andata a fare le spese di Natale in una zona centrale medio alta di Atene e purtroppo ho visto che tutti i negozi erano praticamente vuoti. I sconti hanno cominciato di già e arrivano ad un livello di 60%. Poi quando entri dentro, per non perdere il cliente, loro ti fanno subito un altro sconto del 10%. In generale la gente compra molto di meno e crea cose da solo, oppure visita molti bazar che nascono continuamente in ogni zona di Atene, sì. Ma anche in tutta la Grecia. Poi hanno aperto moltissimi cosiddetti mercati sociali. Solo a Corinto, che è una città di 50.000 abitanti, ce ne sono già due. Cioè, questi mercati sociali, ognuno può offrire quello che vuole, di solito prodotti basilari tipo latte, panna, pasta, e le persone meno avvantaggiate possono fornirsi di queste cose quotidianamente gratis. Ok. Poi nei supermercati c'è il cosiddetto carrello dei poveri, dove ognuno lascia quello che può e vuole, e sono nati anche diversi servizi di collaborazione e di sostegno, cioè di un interscambio praticamente, dove uno si può iscrivere e offrire i suoi servizi gratis per poter avere altri servizi gratis. Per esempio, un insegnante di inglese offre lezioni gratis ad un elettrologo e quello poi viene a casa e li aggiusta la casa. E per quanto riguarda il turismo adesso, visto che la Grecia non è considerata una destinazione natalizia, è per quello che non abbiamo turisti in questo periodo noi, e da noi non esiste il detto Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, anche il contrario, qui è Pasqua con i tuoi e Natale con chi vuoi. Prima si andava per esempio a sciare, si andava in Europa o nel resto del mondo come Brasile o Thailandia durante le feste natalizie, e adesso da quello che dicono le agenzie turistiche questa percentuale è scesa di 40%, e di solito la gente che parte poi finalmente sceglie destinazioni vicine come per esempio la Bulgaria, la Serbia, ma anche l'Italia. In generale c'è una nuova tendenza, quella di rimanere a casa, di passare le vacanze con i tuoi, invitare gli amici e passare le feste così, insomma. Certo, quindi insomma ritrovarsi attorno a un tavolo, quindi preferire la cena o il pranzo a casa piuttosto che il ristorante. Quindi un Natale a risparmio, un Natale che, come abbiamo letto, insomma, ha colpito soprattutto la classe media, quindi quello che ci raccontavi anche di questi aiuti, di solidarietà, anche per fasce non abituate ad essere aiutate, quindi proprio un cambio di visione, una rivoluzione sociale importante. Sì, sicuramente la Grecia cambia e stiamo cambiando anche noi. Sì, è aumentato tantissimo il volontariato, la sensibilità e la collaborazione la collaborazione, scusami, ci sono poi molte più associazioni che aiutano i giovani imprenditori, per esempio col mentoring, ci sono sempre più associazioni per aiutare la gente, giovani che vedono l'imprenditorialità come unica soluzione per sopravvivere, molti che lasciano la città grande e tornano ai loro villaggi, e in generale ci sono molti più legami con la famiglia ormai ed anche un ritorno ai valori tradizionali. L'abbiamo sentito dire molte volte in questo periodo che probabilmente per fare un passo avanti bisogna fare un passo indietro in questo momento, un passo indietro anche esatto. In queste direzioni, quindi riscoprire tantissimi, per esempio si rimettono a lavorare la terra, ma non solo per la sussistenza, proprio giovani che diventano imprenditori agricoli, per esempio. Quindi c'è veramente una rivoluzione in corso e speriamo che sia una bella risposta a quel sentimento di rassegnazione invece che troppe volte è solo un grande freno a mano. Maria, grazie davvero per la tua testimonianza, un augurio sincero di buon Natale, di buone feste a te e a tutti i tuoi collaboratori. Buon Natale a tutti e spero che l'anno nuovo porterà più prosperità, più possibilità, più posti di lavoro e salute a tutto il mondo. Grazie mille Federico. Ciao, buon sabato, grazie. Buongiorno. Ciao, ciao. Europost-it. Casa Swap, alloggi e aiuti economici per vivere all'estero. Casaswap.com è un forum studentesco internazionale che permette agli utenti di scambiare le proprie abitazioni e di risolvere in modo efficiente ed economico l'annoso problema dell'alloggio in caso di stage o di periodo di studio all'estero. Ma non solo. Casaswap da un po' di tempo ha attivato anche un servizio di sovvenzioni che offre ogni mese un contributo di 1000 euro a uno studente intenzionato a trasferirsi all'estero per un periodo. Per partecipare alle selezioni è sufficiente iscriversi sul sito, indicare le motivazioni della partenza e della richiesta di sovvenzione e aspettare fiduciosi. Per tutte le informazioni visitate i siti casaswap.com e student-grants.eu. E continua il nostro viaggio, iniziano anche ad arrivare i vostri messaggi al 349-238-6666, per esempio Helga e Luca ci dicono siamo appena stati a Praga, consigliamo la Repubblica Ceca, soprattutto perché si trova vero in difficoltà per colpa della crisi, però i prezzi sono ancora contenuti e c'è un bellissimo clima natalizio, comunque una città, una nazione viva. 349-238-6666 per i vostri flash dall'Europa, se avete visitato una città, una nazione, volete raccontarci che Natale avete visto. Dalla Grecia passiamo alla Germania, passiamo quindi al lato estremo e lo facciamo con un amico dell'altra Europa, il giornalista del quotidiano Tazza. Diamo il ben ritrovato ad Ambros Weibel. Ciao Ambros. Ciao Federico. Ciao, buon ciao. Sabato, come stai? Ah, sto bene. Non fa troppo freddo, così si aspetta un Natale bello, direi. Un Natale bello è un numero che ho letto proprio ieri sfogliando il venerdì, un settimanale italiano. Il titolo è Il mio grosso grasso Natale tedesco, spesa media per la festa 285 euro, il 9% in più rispetto al 2011, e spendono proprio tutti. È un Natale generoso quello che aspetta e quello che si appunto stanno vivendo i tedeschi? Forse è l'ultima, diciamo, è un po' difatti le spese sono un po' aumentate per i regali di Natale, che però si deve anche dire Natale in assoluto è la festa più importante per i tedeschi, non c'è paragone con Pasqua, con altre feste. Ma poi, diciamo, la situazione mi pare un po' così, che ancora una volta si spende e si fa dei regali grandi e grossi, perché per il 2013 c'è un po' di insicurezza. L'insicurezza nel senso che se la crisi probabilmente arriverà anche da noi, arriverà anche in Germania. Grazie davvero come sempre ad Ambros Weibel, ci ritroveremo quindi il nuovo anno. Buon Natale Ambros a te e a tutti i tuoi collaboratori. Buon Natale a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie, ciao, ciao, ciao. Feliz Navidad! E con queste allegre note natalizie andiamo in Spagna, ci andiamo con un freelance italiano, si chiama Daniele Grasso, collabora con diverse testate, in particolare per Italia collabora con il quotidiano Pubblico. Ciao Daniele, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno a voi ascoltatori. Abbiamo lasciato la Spagna, la Germania, ci diceva il collega Ambros, che hanno fatto un lungo lavoro sulle case in Germania, ed è proprio un lavoro invece sulla casa e sulle case in Spagna che ha colpito la mia attenzione, un reportage che hai scritto in queste settimane, e mi piaceva proprio partire da lì, partire dalla casa in Spagna, che è un po' il simbolo probabilmente della grande crisi spagnola, per capire da te quale Natale si apprestano a vivere gli spagnoli. Cosa rappresenta la casa, cosa rappresenta il mercato immobiliare oggi in Spagna? Allora, come giustamente citavi nel reportage, si vede che il mercato immobiliare, la casa, rappresenta un po' oggi quasi un sogno infranto da un certo punto di vista, e un sogno infranto per alcuni, una truffa per altri, un'occasione persa per altri ancora, perché se era l'immagine della grande espansione della Spagna miracolo economico e della Spagna che superava l'Italia, faceva il famoso sorpasso, oggi invece sono milioni le case che sono rimaste vuote, sono milioni le case che sono rimaste che non sono state terminate, addirittura appunto interi paesi, come ho potuto vedere in questo piccolo viaggio nel centro della Spagna alla ricerca di questo tipo di luoghi. Infatti sono luoghi, cioè tu hai raccontato più che storie di case, storie di pilastri, storie di pareti, storie di fondazioni su cui poi non è stato costruito niente, storie di cemento abbandonato. Esatto, esattamente, sì, il viaggio che ho fatto è stato appunto in alcuni paesi emblematici di questa grande bolla immobiliare, in cui sono state costruite, messe le fondamenta, appunto, in alcuni casi messe le fondamenta per costruire interi quartieri, in altri casi costruite direttamente le case, e oggi sono dei paesi fantasma ultramoderni, con tutte appunto con case anche esteticamente molto belle, tutte con piscina, ma non c'è un'anima viva, e oppure in altri casi ancora si arriva ai paradossi degli aeroporti, che appunto non solo si sono costruite case, ma addirittura grandi infrastrutture che adesso rimangono vuoti e infrautilizzati, e il caso appunto è quello di Ciudad Real, che è quello che ho visitato per il reportage. Adesso c'è una riserva per una specie di uccello rapace, per quanto viene utilizzato. Nonostante ciò, l'aeroporto c'è, con la sua pista più lunga del mondo, tra l'altro. Cortadoamaro.com è il sito di Daniele, dove potete leggere tutti i suoi servizi e i suoi reportage. Daniele, che Natale si appresta a vivere la Spagna? Allora, la Spagna si appresta a vivere un Natale senza dubbio, in cui, innanzitutto il primo senza la tredicesima, ed è abbastanza importante dirlo, perché è stato un po' la ragione delle proteste più grandi che ci sono state durante quest'anno in Spagna. Nonostante ciò, come oggi ha dimostrato, oggi c'è stata la tipica lotteria di Navidad, la lotteria di Navidad, che appunto l'estrazione della lotteria che viene fatta ogni anno il 22 dicembre, e che accaparra l'attenzione di tutta quanta la Spagna, che è in prima pagina su tutti i giornali, perché è visto un po' come un momento in cui, insomma, la fortuna, dopo tutto l'anno, la fortuna poi può premiare chiunque, insomma. E nonostante questo aspetto, appunto, sì, in Spagna si attende sempre un po' con più attenzione l'arrivo de los Reyes Magos, dei Re Magi, infatti si festeggia sempre molto di più, e quindi diciamo in questa attesa per il Reyes Magos, come dicevo prima, è un po' un momento per tirare le somme di un anno che anche il quotidiano del Paese l'altro giorno presentava come l'anno delle proteste, mm-hmm. senza senza mezzi termini. Questo ovviamente non deve farci immaginare che la Puerta del Sol di Madrid non sia piena di gente, che ci siano i negozi stracolmi, che il mercato di Natale della Plaza Mayor è anche lui ribolle di gente, l'odore a fritto dei churros, dei dolci tipici invade praticamente tutto il centro di Madrid. Certo, chi lo frequenta va in giro magari con un occhio più attento al numero sempre crescente di senza tetto che proprio in questo centro della città trovano rifugio in dove fino a 3 o 4 anni fa c'erano magari qualche bar o qualche locale. E Daniele, tu adesso sei appena rientrato in Italia, poi tornerai immagino in Spagna dopo le vacanze. Sì, torno giusto per il Capodanno. Su cosa lavorerai? Hai dei prossimi obiettivi che ci puoi anticipare? Ma in questo momento appunto il reportage di cui parlavamo prima mi piacerebbe ampliarlo e riuscire soprattutto a trovare quali sono non più solo le case ma anche le grandi infrastrutture che sono un po' il simbolo della Spagna di oggi, e questo a grande livello. Poi in realtà è un'idea, insomma, diciamo, nel giro di qualche mese spero di poterla concludere, perché ci sarà da girare, purtroppo ci sarà da girare tutta la Spagna. Per il resto ci sono i temi sociali e quelli più sentiti anche in Spagna in questo momento, diciamo appunto dagli sfratti al problema della fame, che sono problemi che in Spagna fanno male, tanto che da fastidio che si trattino questi temi. Basta vedere lo scandalo che ha provocato in Spagna un bellissimo reportage del New York Times sulla povertà. Insomma, quindi sono temi a cui bisogna dare attenzione, cercando di non essere banali come a volte siamo i giornalisti, ma di dare un po', insomma, il lato umano, senza dimenticarci che stiamo parlando di persone esattamente come noi. Cortadoamaro.com, ricordo ancora il sito di Daniele Grasso, lo potete trovare se no anche su Twitter, dove è attivissimo con le sue segnalazioni dalla Spagna. Grazie Daniele, buon Natale, ci ritroveremo presto qui all'Altra Europa. Ciao. Grazie a voi, buon Natale. Quella che state ascoltando è una canzoncina dove c'è un robot, si chiama CE, e spiega che se i giochi e i giocattoli hanno il marchio CE, sono giocattoli sicuri. Si parla di lotta alla contraffazione, lo si fa con una campagna importantissima lanciata dalla Commissione Europea proprio in questi giorni natalizi, dove si fanno, c'è la corsa agli acquisti e magari non si presta sempre attenzione a quello che si va a comprare. Invece è un tema assolutamente sensibile ed è un tema a cui lui tiene tantissimo. Diamole ben ritrovato qui all'Altra Europa al vicepresidente della Commissione Europea e responsabile per l'industria e l'imprenditoria, Antonio Tajani. Buongiorno Tajani. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. È Natale, quindi è un momento importante perché c'è la corsa agli acquisti, quindi è un momento fondamentale per ricordare questa lotta europea alla contraffazione. C'è stato un sondaggio fatto pochissimo tempo fa proprio dalla Commissione Europea qui in Italia, e una delle richieste che i cittadini fanno all'Europa è la richiesta di sicurezza a 360 gradi, e c'è anche proprio la sicurezza in quello che si va ad acquistare tra i temi più importanti, vero? Assolutamente sì, noi ogni 6 mesi alla vigilia delle vacanze di Natale e alla vigilia delle vacanze estive lanciamo una campagna contro la contraffazione, perché è una delle piaghe che dobbiamo cercare di curare, perché ci sono in Italia prodotti contraffatti in circolazione per circa 6 miliardi di euro. Questo significa fare un danno alla nostra salute, perché i prodotti contraffatti non rispettano le regole europee per la tutela della salute, ci sono dei pericoli per i giocattoli, per i bambini, ci sono pericoli anche per i grandi, facciamo un danno alla nostra economia, facciamo un danno allo Stato perché c'è l'evasione fiscale, e soprattutto aiutiamo, se acquistiamo prodotti contraffatti, la malavita organizzata, che è la grande regista della vendita dei prodotti contraffatti. Insomma, ci sono una serie di motivi per cui è importante non acquistare prodotti contraffatti e vigilare. Le famiglie devono vigilare anche quando acquistano dei giocattoli non nei negozi autorizzati, verificare sempre se c'è il marchio CE. Avete fatto bene, vi ringrazio far ascoltare un po' la clip che è molto seguita su YouTube della Commissione Europea, che invita sempre a controllare il marchio CE, che deve essere impresso su tutti i prodotti, perché quella è una garanzia che sono state rispettate le regole per la costruzione. Poi è importante anche verificare, questo è un consiglio che diamo a tutti i genitori prima di acquistare un giocattolo, che quel giocattolo sia adatto per l'età del bambino. Terza cosa è verificare anche quando ricevono il regalo dei giocattoli usati o da un amico più grande o da un cuginetto magari, che quel giocattolo rispetti sempre le stesse regole. Non è detto che perché è stato usato da qualcun altro sia in sintonia con la normativa comunitaria che punta a tutelare la salute, ma per rendere ancora più forte l'azione contro la contraffazione, all'inizio del prossimo anno io proporrò una riforma delle attuali norme per rafforzare il coordinamento tra gli stati membri e per imprimere una svolta ancora più dura nella lotta contro questo fenomeno che, ripeto, fa perdere i posti di lavoro, mette a repentaglio la salute dei nostri figli, ma anche la salute dei più grandi. Certo, ed è vero che ognuno è chiamato alle proprie responsabilità, le istituzioni al controllo, ma anche noi cittadini a essere consapevoli di quello che andiamo ad acquistare. Tajani, lei ha già acquistato i regali di Natale per quest'anno? Sto andando ad acquistare, io sono sempre all'ultimo minuto perché sono rientrato da Bruxelles proprio per lanciare la campagna anticontraffazione, per parlare ieri all'ambasciatore d'Italia, oggi lo dedico in parte alla famiglia, in parte all'acquisto dei regali di Natale per mia moglie e i miei figli, e poi invece dopodomani sarò in una comunità di recupero dei tossicodipendenti che seguo da tanti anni, e anche per un Natale di solidarietà. Dobbiamo sempre ricordare i più deboli, coloro che hanno bisogno magari di una mano. Certo, ma c'è un giocattolo, un regalo che ha ricevuto da bambino che le piacerebbe riceverlo di nuovo? Sempre il pallone, sempre il regalo più gradito. Avendo un figlio calciatore, sempre il regalo più gradito per tutta la famiglia. Certo. Tajani, prima di salutarla, volevo fare con lei proprio due considerazioni invece su questo 2013. Quali sono le sfide che aspettano l'Europa? Sarà un 2013 migliore? Io mi auguro proprio di sì, e le previsioni ci dicono che a partire dal secondo trimestre le cose dovrebbero cominciare a migliorare, sia pure lentamente, però la situazione dovrebbe essere più felice di quella del 2012. Noi dobbiamo da parte nostra invece lavorare per dare risposte concrete ai cittadini, ai quali abbiamo chiesto molti sacrifici, ma i sacrifici sono inutili se non dannosi se non vengono accompagnati da un'azione per la crescita, vale a dire un'azione a sostegno delle imprese, dell'industria, con norme e iniziative che agevolino la ripresa economica. Insomma, noi dobbiamo lavorare tantissimo per la crescita, guardando ai nostri figli, guardando all'occupazione, che è il principale problema che hanno tutti i cittadini europei. Perché è stato comunque un 2012 dove l'Europa, sì, anche il concetto proprio di Unione Europea è stato minato, no? È stato comunque il 2012 dove si è parlato della fine dell'euro, dove si è parlato di alba dorata, dove si è parlato di estremismi, che è proprio una tendenza a frantumare anche quello che è il sogno europeo. Secondo lei si è toccato l'apice di questo percorso anti-europeo o invece è un campanello d'allarme da tenere ancora sotto controllo? È un campanello d'allarme, e i risultati elettorali che ci sono stati in giro per l'Europa non devono e non possono essere sottovalutati. Non basta dire c'è un fenomeno anti-europeista, bisogna capire perché. Sarà un 2013 stimolante, pieno di impegni, pieno di sfide, ma appunto stimolante, usiamo questa parola che è comunque una parola positiva. Grazie davvero al vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani, un sincero buon Natale a lei e a tutto il suo staff. Grazie, auguri a tutti quanti voi, a tutti gli ascoltatori, per un felice Natale con le famiglie, e che il 2013 possa essere l'anno della ripresa, che possa vedere esauditi i desideri e le speranze di tanti italiani, soprattutto dei giovani italiani, perché sono loro il nostro futuro. Bisogna partire da loro. Buon sabato Tajani, grazie ancora. Grazie, auguri anche a voi. E questo grazie va a tutti voi per essere stati in nostra compagnia, a tutto lo staff dell'Altra Europa, Miriam Lucchetti e Margherita Ina, che con me hanno scritto la puntata, Giorgio De Luca in assistenza, Peter Bescapè oggi alla parte tecnica, dall'altra parte del vetro c'è già Davide Paolini, il gastronauta, sarà in onda fra fra pochissimo, subito dopo il GR. Radio24.it per riascoltare la puntata, l'altra Europa, @radio24.it invece se volete scriverci. Un sincero augurio di buon Natale da parte mia. Ci ritroviamo qua sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Taddia.